Lecito, signora, vorrei saper chi è mai vos signoria. Non connette costui? Come? Tu non conosci la baronessa Irene? La zia del conte Enrico, tua padrona. Misero me, che sento, e non sapete, io son la cavaliera favorita e mi chiamo Lisetta. E non vedete al nobile portamento? Io sono Don Filotto, cittadino della città di un bel castel vicino. Mi compatisca, eccellenza, l'ignoranza. E tu chi sei? Come ti chiami? E questa bellissima fanciulla? Io son Masino, capo di pescatori. In quanto a quella, sappia lei che Rosina, ma sorella. Non mi grossinfa in questa, colei che fu cercando. Mira, mira, Villotto, la tua sposa. Che contentezza, oh caro! Mira il signore.